La zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 8 minuti, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, di nuovo per una serata insieme con i vostri interventi all'800 24 00 24 ma anche al 349 238 6666 se volete scriverci i vostri sms oppure la zanzara @radio24.it, c'è anche il profilo Facebook, ricordiamolo, no? Perché anche questo può essere un modo per interloquire con noi questa sera. Questa sera, come anche ieri, Laura Marchesi, Marco Lombardo in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Un saluto anche da me, Alessio Maurizi, in questi giorni ai microfoni, con Giuseppe Cruciani in vacanza. Cominciamo a sentire gli spunti per questa serata. Sky TG24, titoli. Debito USA, in corso il dibattito al Senato, tra poco il voto, attesa dichiarazione di Obama. Borse ancora in calo, Milano perde oltre il 2,5%. Napolitano segue il confronto, stimolare la crescita è indispensabile. Berlusconi domani riferirà alle Camere, giovedì l'incontro con le parti sociali. In corso la riunione del Comitato di Stabilità, la Commissione dell'Unione Europea, fiducia nell'Italia. Milanese contro me, solo calunni e sì della Camera all'apertura delle sue cassette. A patti G8, no alle intercettazioni, l'Aula salva Denis Verdini. In Siria il Ramadan comincia con 24 morti, all'ONU nessuna intesa sulle sanzioni. Addormentati in un aeroporto, comincia il sogno di mare blu. Eh sì, perché nonostante le notizie che avete sentito anche dal GR di Radio 24, i titoli di Sky TG 24, il tema di queste ore sembra essere quello delle vacanze dei parlamentari, degli esponenti politici, del governo. Beh, perché insomma quella di domani potrebbe essere, dovrebbe essere da calendario l'ultima seduta della Camera e del Senato prima della pausa estiva, ma si sa che la situazione non consente previsioni in questo senso. E allora ecco che leggendo qua e là scopriamo che sarebbe dovuto partire per esempio venerdì sera per Stromboli Giorgio Napolitano, invece il traghetto è salpato senza di lui. Il capo dello Stato resta al Quirinale almeno fino al 2 agosto e farà invece probabilmente la spola tra Arcore e Villa Certosa il presidente del Consiglio Berlusconi. Ignote per ora le vacanze dei presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, anche loro alle prese con un possibile prolungamento del calendario parlamentare. Insomma, questo è un po' il tema di queste ore e non so, qualche altra curiosità se volete. Faranno vacanze al mare con la famiglia Bersani, Vendola, Rutelli, Casini, invece Di Pietro va in campagna. Perché la vita è una vela di circostanze e tequila. Ma al di là di questo e anche dell'ironia, se volete, la notizia clamorosa però è un'altra a questo proposito, ed è un'ansa di oggi delle 13:10. Pregherò per te. Che hai la notte nel cuore. La notizia è questa: l'aula della Camera riprenderà i lavori dopo la pausa estiva la settimana successiva rispetto al Senato, il 12 settembre. Il presidente dei deputati del PDL, Fabrizio Cicchitto, ha ribadito che la decisione è stata frutto di una valutazione seria, nel momento che la prima settimana di settembre circa un centinaio di parlamentari, come tradizione, fanno un pellegrinaggio. Avete capito bene, un pellegrinaggio, non si sa bene se in Siria, in Giordania o in Terra Santa, adesso forse lo capiremo, un centinaio di parlamentari vanno a fare questo pellegrinaggio e allora la Camera non apre il 5 settembre ma il 12, una settimana dopo. E insomma, in un momento come questo nel quale l'Italia è col fiato sospeso per la situazione delle borse, il governo si impegna con le parti sociali, domani Berlusconi parlerà e chissà cosa dirà, e la Camera rinvia di una settimana la riapertura a settembre, che già è molto lontana se vogliamo, per il pellegrinaggio dei parlamentari. E vabbè, insomma, che poi il pellegrinaggio, se vogliamo, è una vacanza anche quella, no? Thank you. ritorniamo su questo tema e ritorniamo anche su quello dei costi della politica, perché i parlamentari ci scuseranno, ma in queste ore sono attenzionati anche per un'altra ragione, non solo per il tema delle loro possibili vacanze, peraltro chi ha lavorato sono più che meritate, questo lo diciamo per inciso. Ma il tema è anche quello del presunto, ammesso che sia così, taglio ai costi della politica, perché Camera e Senato oggi votano i loro bilanci e insomma, ieri l'abbiamo sentito il questore Mazzocchi dire che i parlamentari italiani non costano più di quelli europei. Arrivano questi tagli, ma qualcuno dice non sono tagli, sono non aumenti di spesa, cioè non c'è il taglio ma c'è l'invarianza della spesa. Lo dice per esempio uno come Gian Antonio Stella, che insomma se ne intende dei costi della politica, sentiamolo. Devo dire che da quello che si capisce a questi tagli, loro stanno fermi, non è che tagliano, stanno fermi. Quindi secondo lei non aumentano, tutto qui, benissimo. Facciamo cambio, stanno fermi anche i cittadini, facciamo a meno di mettere i ticket e facciamo a meno di mettere dei tagli e stanno fermi anche i cittadini e vediamo se la Camera e il Senato ci stanno. Io non credo che ci starebbero. Insomma, dice Stella, tutto sommato è il contesto che conta. In questo contesto lo sforzo di mantenere invariata la spesa anziché di farla aumentare appare un po' poco. In un contesto come questo dire stiamo fermi, quindi non aumentiamo i nostri costi, a me sembra poco. Un taglio dello 0,34% da parte del Senato in un paese in cui ci sono stati dei suicidi di imprenditori che sono andati a picco, in un paese in cui sono stati licenziate centinaia di migliaia di persone, in un paese nelle condizioni in cui oggi l'Italia, che ha uno sviluppo che è un quinto di quello tedesco, a me sembra che uno 0,34% di taglio sia molto poco. E domani però, lo avete sentito, è il grande giorno, il ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica, perché interverrà alla Camera e al Senato sulla crisi economica. Secondo molti commentatori, Stefano Folli sul Sole 24 Ore o anche Francesco Giavazzi oggi sul Corriere, è l'ultima chance per Berlusconi. Leggiamo Giavazzi: Berlusconi ha un'ultima chance per salvare se stesso, il suo governo e non ultimo questo sfortunato paese. Egli è stato un imprenditore che nella sua vita ha saputo cogliere grandi successi. Dia prova di saper affrontare questa nuova emergenza. È in grado, se vuole, dice Giavazzi, di prendere in mano il timone della politica economica. Lasci perdere leggi e leggine ad personam, pensi al paese. Poi conclude Giavazzi, ma la strategia deve partire domani, dopo le vacanze sarà troppo tardi. E insomma, questa è l'opinione di alcuni commentatori. Il ritorno di Berlusconi sulla scena mette un po' in secondo piano, in ombra, la figura di Tremonti, che fin qua è stato il manovratore della manovra economica e quindi anche responsabile della situazione economica. Tremonti, attorno al quale, come sapete, non tira una bella aria il suo ex braccio destro Marco Milanese, coinvolto in una inchiesta e che tra l'altro oggi ha autorizzato così i colleghi parlamentari ad autorizzare la magistratura ad utilizzare, diciamo, le informazioni che sono necessarie per l'inchiesta che lo coinvolge. Io sono innocente. Nessuno di questi fatti, dei quali sono accusato da persone direttamente o indirettamente interessate, è vero. E ho un solo modo per dimostrarlo e al più presto, che le indagini dei magistrati proseguano e l'accertamento che ne seguirà si portino a compimento il più velocemente possibile. Per fare ciò è necessario che oggi stesso accogliate unanimi la richiesta di consentire l'apertura delle mie cassette di sicurezza e di acquisire i tabulati dei telefoni nella mia disponibilità, come del resto io ho sempre chiesto. E tra l'altro sulla situazione di Tremonti c'è un'interessante opinione di Giuliano Ferrara oggi sul Corriere della Sera, che dice: dia le dimissioni, ma Silvio Berlusconi le deve rifiutare. Un rito sembra un po' un rito bizantino, no? Da Prima Repubblica deve dare le dimissioni, però Silvio Berlusconi deve rifiutare, perché Tremonti, dice Ferrara, in questo momento è indispensabile per l'Italia. Però poi dice: la scelta di mettersi al fianco Milanese, gli domanda l'intervistatore, lui risponde: vedremo gli sviluppi dell'inchiesta. Certo, non viene fuori il ritratto di un ministro che sa scegliere collaboratori con un certo gusto nei consumi e con un contegno non trasandato. Un'opinione che per una volta avvicina Ferrara a Travaglio. Tremonti, che io personalmente pensavo essere una persona molto astuta, molto accorta, cioè dà proprio l'impressione del bambino preso con le mani la marmellata che non sa come giustificarsi. È penoso vedere come è cambiata la percezione di Tremonti in questi giorni nel sentirlo parlare di quella benedetta casa e di quel benedetto affitto. Non c'è niente che torna, è tutto assurdo. 824 0024, tra poco con i vostri interventi ai microfoni Radio 24, subito dopo il traffico. Addormentati in un aeroporto, comincia il sogno di mare blu, noci di cocco e di tanga, la vita danza il merengue. Insomma, siamo un po' in ansia per le vacanze dei parlamentari che domani potrebbero andare in vacanza, ultimo giorno di seduta alla Camera e al Senato, però la situazione è in sospeso, insomma, non si sa se davvero inizieranno le sospirate vacanze. Va bene, adesso prima dei vostri interventi all'800 24 0024 sentiamoci anche i titoli del TG2. Il presidente Napolitano esprime preoccupazione per l'andamento dei mercati finanziari. Seguo il confronto tra le forze politiche, scrive in una nota, per stimolare crescita e occupazione. Borse in affanno in tutta Europa. Milano, maglia nera, perde il 2,5%. Ai massimi il differenziale tra BTP italiani e Bund tedeschi. Domani l'intervento del Premier in Parlamento. La Camera autorizza i PM napoletani ad acquisire i tabulati telefonici di Marco Milanese. Negato invece agli inquirenti che indagano sul G8 l'uso delle intercettazioni di Verdini. Dopo quello di Ascoli Piceno, anche il GIP di Teramo conferma l'arresto per Salvatore Parolisi, accusato di aver ucciso la moglie Melania Rea. La donna, si scrive nell'ordinanza, non poteva difendersi. Queste dunque le notizie della giornata nella sintesi fatta dal TG2. Adesso, come detto, cominciamo a sentire le vostre chiamate. Cominciamo da Pietro, che chiama da Campobasso. Buonasera. Salve, buonasera dottor Maurizi, grazie per avermi chiamato. Prima di dare l'opportunità ai politici di precipitarsi a definirmi, dico subito che sono un populista, demagogo e qualunquista, per cui, a parte la facile battuta che in campagna non ci dovrebbe andare soltanto Di Pietro, ma tutti quanti a zappare e a Lourdes a fare un buon pellegrinaggio per ritornare in possesso delle loro facoltà mentali. Detto questo, volevo intervenire su quanto è stato detto da Colucci e Mazzocchi ieri, se non sbaglio. Sì, noi abbiamo intervistato Mazzocchi, certo, sì. Il questore della Camera, a proposito degli stipendi dei parlamentari italiani, che non sarebbero più alti di quelli della media europea. Sì, sì, ma poi a parte il fatto che hanno giocato in modo rusco tra netto e lordo, non tenendo presente la differenza delle tasse che si pagano in Italia con quelle in Germania, che sono nettamente inferiori. Ma quello che mi premeva dire, che è stato bruciato dall'intervento del dottor Stella, è che il signor Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto per la sua carica, per carità, in effetti, rinunciando all'adeguamento, e i parlamentari rinunciando al cosiddetto recupero dell'inflazione, hanno rinunciato però su quali cifre? E hanno rinunciato alla stessa quota praticamente che hanno sottratto ai pensionati con 1.000, 1.200, 1.300 euro di pensione. E poi un'altra precisazione riguarda la trattenuta di solidarietà per gli emolumenti superiori ai 90.000 euro. Qui c'è un inganno, perché bisogna stare attenti. La trattenuta riguarda l'eccedenza dei 90.000 euro, vale a dire, se io invece di 90 ne guadagno 95.000, il mio contributo di solidarietà è limitato ai 5.000 euro. Ah, ecco, questo per esempio non io personalmente non l'avevo capito. Sì. E questa è un'altra presa per i fondelli. Beh, questo sì, perché si fa passare per un contributo. Avere la scontatezza unica, essere sprezzanti per i contribuenti, vabbè, significa calpestare la povera gente che non ce la fa non ad arrivare a fine mese, ma addirittura a superare i primi 15 giorni del mese. Grazie, io questa cosa non la sapevo. In effetti, se fosse così, sarebbe sicuramente meno forte di quello che uno può pensare. Un contributo per le pensioni sopra i 90.000 euro, che sono sicuramente delle belle pensioni, però se il contributo viene preso e va a pescare solo sull'eccedenza, è chiaro che si riduce il potenziale di entrate di questo provvedimento. Grazie. a questo nostro primo ascoltatore della serata. Andiamo a Daniele che chiama da Bologna. Sì, buongiorno. Buonasera. Prego. Sì, io chiamavo perché fa veramente ridere questa notizia qua di queste feste prolungate dei parlamentari. Io francamente non sono preoccupato, anzi probabilmente porterà fortuna questa cosa, perché qua siamo in un contesto che è talmente tragicomico che mi fa pensare che forse un po' di ferie possa fargli bene a queste persone che evidentemente o lavorano troppo o lavorano troppo poco. Ma io non so, io ho sentito delle notizie che parlano di Verdini che insiste perché gli venga data l'autorizzazione per le sue intercettazioni, come insisteva Tedesco e chiedeva per chiedere l'autorizzazione a procedere, no? E non gli sono state date. Ho sentito questa dichiarazione di Menese che voleva dare l'autorizzazione a fare vedere le sue carte, insomma. Sì, però è stata concessa incredibilmente. E ho sentito le dichiarazioni ieri proprio alla Zanzara di Ciriaco De Mita, che caldamente, tranquillamente diceva che lui non poteva stare abbastanza nel Parlamento europeo perché doveva prendere un aereo diretto e non quello che faceva scala a Parigi. Cioè, sento un questa non era male, vero? Non era male, devo dire. E poi lui ha detto anche perché sa, con l'età che ho, che ha 83 anni, però dico, non è che gliel'ha ordinato il dottore di fare l'europarlamentare a 83 anni. Questa che ha portarsene pure in pensione, no? Ecco, che, sì, l'ha detto lei. È una bella pensioncina. Ma sì, poi insomma Tremonti, che io non so, è il ministro dell'economia, adesso sta facendo dichiarazioni pesantissime sulla finanza che se verranno confermate saranno cose molto gravi, no? Nel caso, adesso tutto starà nelle indagini. Sì, a dir la verità, lui ha già parlato con i magistrati e non è che abbia fatto delle grosse ammissioni su questo aspetto. Adesso poi ha parlato di ricostruzioni della stampa, forzature, e quindi non è chiarissimo cosa ci sia da parte di Tremonti sulla questione dei vertici della finanza, per cui staremo a vedere, c'è un'inchiesta a Roma. Comunque, prego. Comunque c'è, sì, il fatto che, da quello che si dice, insomma, pare che abbia pagato un bel po' di soldi di un affitto che però non è stato denunciato questo affitto, cioè non lo so, questo a me non sembra una cosa di... Secondo lei si dovrebbe dimettere per questa ragione, se fosse solo per questo? Ma oddio, io posso, non dico io, perché io, come dire, non ho idea di come siano queste diciamo queste manovre eccetera, però direi che ci sono parlamentari o ministri diciamo europei di paesi stracivili che si dimettono per ma molto molto molto molto molto molto e continuiamo all'infinito del molto meno. Sì, basterebbe ricordare quel ministro tedesco che aveva copiato una parte della tesi di laurea esatto, e solo per quello poi si è dimesso, credo il ministro della difesa fosse. Insomma, e poi tutto questo in un contesto, cioè, oggi c'è una notizia che ho letto sul sito della Repubblica che parla di un lavoratore della Fiat di Milano, di Napoli, un lavoratore napoletano della Fiat, che all'ennesima lettera di cassa integrazione, dopo se non sbaglio 24 mesi di cassa integrazione, si è suicidato, cioè ha tentato il suicidio o si è suicidato, insomma è stato fermato dalla moglie, credo, adesso non l'ho letta di sfuggita. Insomma, situazioni in cui ci sono tagli spaventosi anche alle spese sociali. Io conosco persone che lavorano nel sociale, i comuni hanno dei patti di stabilità pazzeschi, per cui non possono, volendo, neanche liberare delle risorse economiche da poter mettere nelle situazioni che più lo richiedono, più sono emergenti, perché hanno anche delle leggi assurde che ne bloccano la fruibilità. Insomma, situazioni del genere in cui ci dovrebbe essere una vuol dire, sia sul discorso delle borse, per carità, sul discorso di questo crollo economico e di questa speculazione che sembra colpire pesantemente il nostro paese. Questa è una cosa molto importante, però sembra quasi che adesso si stiano concentrando esclusivamente su quello, che è sicuramente importante, per cui non so cosa però possa fare Berlusconi presentandosi domani alle 3. Beh, lo vedremo, insomma, comunque sicuramente è importante, staremo a vedere, sicuramente è importante perché bisogna far fronte agli impegni sul debito e le borse da questo punto di vista, l'abbiamo visto, non perdonano, e quando gli spread con i titoli tedeschi, comunque insomma i rendimenti dei titoli pubblici italiani salgono, si bruciano miliardi di entrate fiscali per il nostro paese. Beniamino da Varese, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Prego. E non c'è più. Volevo esprimere un mio pensiero. Sì. Mi sente? sul costo del Parlamento, dei nostri onorevoli, come ben saprà lei, nel passato i medici cinesi venivano retribuiti solo se la famiglia era in buono stato, in buona salute. Per cui io ritengo che i nostri politici siano i nostri medici e non fa star bene il nostro paese. Allora, non capisco per quale ragione devono percepire uno stipendio se non abbiamo neanche un aumento di un euro sul PIL all'anno, o se abbiamo una diminuzione di un euro sul debito pubblico. Sì. Abbiamo solo sciupie, abbiamo sprechi di denaro. L'ultimo è stato quello del referendum, che ritengo assurdo, per via del fatto che abbiamo votato di poter processare i signori politici, poi loro fanno il processo a lunga distanza, di modo che praticamente non è servito a niente. Sì, sì, beh, no, ma è un incentivo per i politici, non sarebbe male, insomma, misurando la loro produttività. Sì. Io ritengo che un politico, visto che nessuno l'ha obbligato a fare il politico, è stata una sua libera scelta. Per quale ragione deve percepire queste paghe abominevoli dopo uno o due mandati, prendere delle pensioni assurde, quando noi poveri comuni mortali, dopo 40 anni di lavoro, prendiamo 600 euro al mese di pensione, capisci? Io sono un pensionato. Insomma, io non le capisco queste cose, veramente, guardi. Va bene, grazie. 18:30, facciamo la borsa, torniamo tra un attimo all'800 24 0024. Ma finiamo di fare gli indignati quando una parte di italiani vive di raccomandazioni, pensioni fasulle e poi se la prendono coi politici. Hanno stufato, rinuncino ai propri privilegi prima, dice Roberto Artigiano da Bergamo al 349-238-6666. A proposito dell'argomento di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè il costo della politica, eccetera, condivido pienamente, Roberto, sono perfettamente d'accordo con lei. I privilegi spesso dei politici sono un groviglio di altri privilegi che riguardano sempre più persone, ed ecco perché poi quando si interviene per tagliare qualcosa c'è sempre qualcuno che dice no, che interviene perché va a perdere un qualche vantaggio personale. Giustissimo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Chi sentiamo? Ancora qualche ascoltatore? Marco da Genova, buonasera. Buonasera, grazie per aver chiamato e buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Prego. Io, al contrario di molti, sono contento che vadano in vacanza, che facciano i pellegrinaggi. Più stanno lontani da Roma, meglio stiamo noi. Guardi, meno disastri fanno. Sarebbe bene che gli passassimo, anziché passargli gli aeroplani, gli passassimo solo i treni. Così impiegano anche un giorno per andare e un giorno per tornare da Roma. Meno stanno, meglio è. Guardi quello che hanno fatto con la Cirio, guardi quello che hanno fatto l'Italia, guardi quello che consigliavano di fare alla Fiat, di mettere su una macchina un cavallino rampante, e questi sono esempi largamente discussi da questi personaggi. Teniamoli lontani, se non evitano di rubare. Più vacanze, lei dice, più vacanze. Anche ieri sera qualcuno diceva sì, lasciate andare, le vacanze fanno meno danni. Beh, insomma, è una tesi un po' estrema. Paolo da Brescia, buonasera. Buonasera, mi fa piacere finalmente poter ritornare a parlare con la Zanzara. Purtroppo ultimamente era molto più difficile poter esprimere l'opinione da parte dei comuni cittadini. Nel frattempo ho accumulato un po' di osservazioni da fare. Sì, però ci faccia una sintesi, perché sennò non riprenda dal mese scorso. Sì. Sarò molto breve. Allora, l'ultimo spunto mi è derivato da quel commento, da quei calcoli che ha fatto il questore ieri sul costo dei politici italiani. Sì. Peccato che si sia dimenticato di confrontare anche il debito pubblico degli altri paesi che ha preso come riferimento, peccato che abbia dimenticato di confrontare anche le pensioni dei paesi che ha preso a riferimento per i comuni cittadini. Questo mi sembra, ecco, perché uno può sicuramente fare questo tipo di raffronto, però dovrebbe guardarlo a livello generale, se vuole essere obiettivo e abbastanza intelligente da considerare questi aspetti. L'altra cosa, l'altro punto è un commento sulla recente manovra finanziaria. Secondo il nostro primo ministro, questa manovra politica, questa manovra finanziaria gli ha fatto perdere voti, gli fa perdere voti, e Tremonti remerebbe contro di loro. vorrei capire come mai in 10 giorni non ha ancora avuto il tempo di intervenire e investire, cosa va fatto ulteriormente per evitare tutto quello che sta avvenendo a livello di borse e di mercati. Terzo spunto, molto rapidamente, per quanto riguarda l'opposizione, che ancora una volta ha perso l'occasione per far vedere che ha qualche buona idea e che ha veramente intenzione di vincere le elezioni. Visto che la manovra, la riduzione del costo dei politici non è possibile secondo Tremonti perché non sarebbe stata votata in Parlamento, avrei voluto vedere i nostri responsabili della sinistra e Bersani in particolare, a farsi dire no, noi veramente vorremmo votarla questa manovra. Noi di sinistra siamo disposti a ridurci gli stipendi e i benefici. Invece anche questa volta su questo aspetto sono tutti d'accordo. Molto interessante. Sì, vabbè, visto che lei parla dell'opposizione, allora, che è sempre presa da cantiere delle alleanze, cantiere sempre aperto, le facciamo sentire, avevamo selezionato tra gli spunti iniziali della serata, un De Magistris che dice in caso di primarie voterei per Vendola, ma è vero, il centrosinistra spesso parla più di futuribili alleanze, di scenari futuri che non del presente. Sentiamo De Magistris. Tra quelli che si sono candidati, chi intende sostenere? Sicuramente come affinità e sensibilità, ovviamente come vicinanza di partito direi Antonio Di Pietro, ma pare che lui non so se si voglia candidare o meno. Come affinità e sensibilità comuni, sicuramente Vendola è una persona a me molto vicina, però deve avere coerenza, perché non posso dimenticare che per esempio a Napoli non si è schierato con la rivoluzione ma si è schierato con la conservazione. La rivoluzione sarebbe lui, sarebbe De Magistris, e la conservazione invece era l'altro candidato, quello sostenuto dal PD. 18:40, ancora ascoltatori all'800 24 00 24. Sentiamo Sandro che chiama da Parma, buonasera. Pronto, buonasera, chiedo scusa e anzi ringrazio dello spazio che mi date, vorrei anzi spezzare una lancia fuori questa trasmissione. Ma perché chiede scusa così? Cioè, non deve chiedere scusa, vada, vada. No, io chiedo scusa perché penso di essere una voce fuori dal coro e più precisamente io me la prendo con quanti se la prendono con coloro che hanno i redditi alti. Allora, cioè lei difende, facciamola più semplice, lei difende i redditi alti, in questo caso per esempio, non lo so, dei parlamentari. Ma ecco, i parlamentari secondo me sono un caso a parte, ma sappiamo benissimo che se anche mettessimo i parlamentari a zero non sarebbe questo che risolve i problemi dell'Italia. Sono poi tutti i vari prelievi che si fanno, le aliquote crescenti, le imposte, eccetera, eccetera. Adesso pare che ritorni l'IRPEF. Ah, mi scusi un attimo perché devo dare una notizia che non è niente di clamoroso, però era attesa. Insomma, il mondo l'aspettava. Il Senato americano approva l'accordo sull'aumento del tetto del debito. Così. Prego. Benissimo, benissimo. Ecco, riprendo un attimo il filo del mio discorso che vuole essere breve. Comunque è questo. Io credo che se noi vogliamo migliorare i redditi bassi li possiamo migliorare migliorando e aumentando la competitività del nostro paese. La competitività del nostro paese è basata sul lavoro, sulla professionalità di tutti. Chi ha un reddito alto, dal mio punto di vista, ha un lavoro difficile di alta responsabilità. Cosa vuol dire alta responsabilità? Vuol dire che paga. Vuol dire che se sbaglia, paga. Dalla sera alla mattina questo va a casa, non ha paracaduti, non ha ammortizzatori, non ha niente. Allora, se noi vogliamo migliorare il nostro paese, non dobbiamo cercare di diffondere lo spirito dell'elemosina, ma dobbiamo cercare di diffondere uno spirito di miglioramento per tutti. E ognuno si migliora lavorando meglio. Non dico di più, dico meglio. Perché noi lavoriamo tanto in Italia, ma non tutti lavoriamo come vorremmo lavorare. Io le dico, conosco tanti stranieri, lavoro con tanti stranieri e noi siamo i migliori, ma questo non voglio essere sciovinista, lo lascio ai francesi questo, ma noi siamo i migliori perché siamo quelli che riescono ad eccellere con minori mezzi, siamo quelli che riescono ad avere più flessibilità, siamo quelli che riescono meglio a districarsi dai problemi improvvisi. Prova ne è che con la crisi noi l'abbiamo sofferta, ma senz'altro meno dei nostri colleghi europei. Il fatto che noi oggi abbiamo l'8% di disoccupazione, che è sempre brutto, ma è tanto meglio di tanti altri paesi, denota che noi gli strumenti li abbiamo. Il problema è che noi dobbiamo diffondere uno spirito, non dico competitivo, ma di maggiore responsabilità, di coscienza di sé. Io ho un figlio, sì. Ho due figli che fanno l'università, uno fa la LUIS, la vostra università, mi sì. Segue? Ecco, si fa un mazzo così, per avere la media del 28, nonostante non abbia borse di studio, non possa accedere, eccetera, eccetera. E questo lo fa perché vuole avere uno sbocco professionale migliore, perché vuole avere una vita di un certo tipo. Perché lo deve fare se poi domani guadagnerà tanto e sarà tassato, verserà tanti contributi per avere una pensione decente e sarà tassato? Sì, ho capito, lei dice che insomma nella vita per arrivare bisogna avere un incentivo, e l'incentivo economico conta, e l'incentivo dovrebbe premiare i migliori. Insomma, queste cose abbiamo sentite dire tante volte, lei ha ragione, però diciamo, in attesa che si espanda questo spirito, come dice lei, della competitività, noi siamo qui a fare i conti della spesa. Titoli di studio aperto, poi il traffico. Nuovo colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Melania. Dopo Ascoli, anche la procura di Teramo chiede l'arresto di Salvatore Parolisi. Per il GIP inventò un falso alibi e deturpò il cadavere della moglie, mentre torna l'ipotesi di un complice. Yara è morta di stenti, abbandonata nelle campagne di Brembate. L'assassino prima l'ha colpita la testa con una pietra, poi l'ha coltellata più volte. Sono le terribili conclusioni dell'autopsia sulla tredicenne. Per i magistrati, il killer non è un giovane. Un'altra giornata difficile per le borse, ma la Commissione europea esprime fiducia sulle misure prese dal nostro paese per superare la crisi. L'Italia ha i conti pubblici sotto controllo, dichiara il numero uno dell'OCSE, e domani Berlusconi riferisce in Parlamento. Stefano torna a casa, l'ultimo viaggio di un ragazzo che sognava la vacanza perfetta ed è stato ucciso in una rissa per difendere un amico. Si aggrava la posizione dell'omicidio, un giovane svizzero ha agito con estrema violenza. Nuovo capitolo del Murdoch Gate, arrestato l'ex direttore amministrativo del News of the World, accusato di corruzione. Per Scotland Yard era lui ad autorizzare i pagamenti, dunque conosceva il sistema delle intercettazioni illegali. E stasera torna a Tabloid, reportage da Oslo, il retroscena dell'inchiesta sul delitto di Melania, gli aggiornamenti in diretta sui grandi casi da prima pagina, da non perdere tra poco su Italia 1. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Onorevole Paola Binetti dell'UDC, buonasera. Buonasera a voi, buonasera alla Zanzara. Anche lei va in pellegrinaggio a settembre, la seconda settimana di settembre? Sì, motivo per il quale la Camera rimanda di una settimana la ripartenza dei lavori al 12 settembre, anche lei va, ma dove andate? Quest'anno andiamo, facciamo una prima sosta a Gerusalemme e poi in realtà tutto il pellegrinaggio si svolge in Giordania, quindi sui luoghi famosi, luoghi diciamo che vanno da Petra, no, La Terra Santa. Sì, comunque l'obiettivo è questo. Il classico pellegrinaggio della Terra Santa. Ma lei l'ha già fatto questo pellegrinaggio? Immagino di sì, perché lei è un esponente. Io l'ho già fatto, anche se l'altra volta il pellegrinaggio in Terra Santa aveva un obiettivo diverso. Cominciava dal Sinai, dal Monte Sinai, e quindi diciamo esplorava un'altra parte del territorio. E un'altra volta ancora siamo andati in Siria, quindi diciamo è un po' una meta privilegiata il Medio Oriente, comunque è il luogo anche caro a tutti quanti noi, a parte la bellezza e quello che può rappresentare come stratificazione di una cultura antichissima, se pensa alla Siria in questo momento, che poi è scivolata in una violenza incredibile. Pensi quanto è antica quella cultura e quanto è violento quel quadro di oggi, è una cosa sorprendente per tutti. Senta, ma qual è la finalità politica di questo pellegrinaggio? Perché a me ho già colpito leggere che in questo momento in cui si attendono le comunicazioni di Berlusconi alla Camera, non si sa se Camera e Senato chiuderanno, si parla della riapertura ai primi di settembre, si rimanda la riapertura per via di questo pellegrinaggio. Qual è la finalità di questa? Io credo che la sua, francamente, la sua interpretazione sia sbagliata. Nel senso che non è che si rimanda l'apertura della Camera. No, ma l'ha detto Cicchitto, l'ha detto il capogruppo del PDL, non è che lo dico io. Beh, l'avrà detto, però voglio dirle, in realtà quella è una settimana densa di feste di partito, per dirle, dall'1 al 3, 4 c'è la festa dell'API, successivamente c'è la festa di Chianciano. Voglio dire, in realtà i primi giorni di settembre da sempre sono destinati. Sì. No, beh, ascolti, voglio dire, si può essere polemici quanto si vuole, però non si può dimenticare che uno degli aspetti più importanti della politica è il contatto con i territori. Diciamo però il pellegrinaggio, mi scusi, è un'altra cosa ancora rispetto alle feste di partito. Ma il pellegrinaggio ci va chi vuole. Sì. Cioè, chi vuole decide di incominciare l'anno con un'esperienza che è un'esperienza... Però scusi, diciamo, lei dice ci va chi vuole, e questo è ovviamente, sfido chiunque a darle torto. Però io le porto il virgolettato di Cicchitto, capogruppo del PDL, che dice... La decisione nasce, rimandare la riapertura di una settimana, da una valutazione seria, dal momento che circa un centinaio di parlamentari fanno un pellegrinaggio, come la tradizione. Quindi è merito vostro se si parte con una settimana di ritardo, o merito o colpa, a seconda di come uno la voglia vedere. Non le so dire, io devo dirle che in tutti gli altri anni, in precedenza, non ho mai avuto la sensazione che l'inizio della Camera si stabilisse in funzione della fine del pellegrinaggio. Ho piuttosto la sensazione diversa, che il pellegrinaggio si collochi prima dell'inizio della Camera. D'altra parte, se fosse come dice lei, anch'io avrei le mie perplessità, perché voglio dire, noi cominciamo il nostro pellegrinaggio il 4 di settembre, ma niente impedirebbe che lo cominciassimo, che so io, il 26 di agosto. Ecco, infatti. Quindi, questa è la domanda che io le facevo: perché non ci si può andare ad agosto in pellegrinaggio? Ma io gliela giro la domanda. È che il pellegrinaggio è posto nel tempo in cui la Camera non è ancora aperta, perché questo è ciò che attiene davvero alla sensibilità. Ma allora, diciamo, qua comincia a diventare, mi scusi, un po' tortuosa, perché ripeto, è molto semplice la cosa. Cicchitto non è d'accordo, però, perché dice un'altra cosa. Io non so che cosa dice Cicchitto, e poi lo giustificherà lui, a chi intende giustificarlo lui. Quello che io intendo dire è che questi ultimi anni sempre il pellegrinaggio viene fatto durante le vacanze. Sì. Durante le vacanze e al termine delle vacanze, non all'inizio dell'anno politico. No, perché questo comunque è un messaggio chiaro e preciso. Sì. Comunque dico no, perché su questo sarà d'accordo, insomma, la situazione è tale per la quale, insomma, non si sa se il Parlamento chiuderà domani, può darsi che i lavori vadano avanti. Ma potrebbe anche riaprire il 16 di agosto, non è che il governo è in una tale situazione drammatica che potrebbe cadere qualunque giorno. Voglio dire, le situazioni che ci sono talmente complesse intorno a noi che la dimensione di precarietà è percepita da tutti noi con grande forza. Non a caso l'UDC insieme alle altre opposizioni hanno insistito tanto perché domani Berlusconi venisse a riferire alla Camera. A proposito, però mi sembra che già se ne dicono tante contro i parlamentari, e mi sembra che adesso spargere questa ennesima informazione che i parlamentari vanno in pellegrinaggio, oltretutto trattandosi proprio di un pellegrinaggio, quando comincia il lavoro della Camera, mi sembra falso. Penso che Cicchitto si sia sbagliato, onestamente. Se ecco, magari parlatene insieme, perché noi non abbiamo fatto altro che prendere atto di questo. Io guardi, glielo ripeto. Io farò la mia domanda esplicita, sì, ecco. Perché mi sembra grave questa affermazione. Sì. Quindi voglio dire, non ho mai sentito che il pellegrinaggio fosse posto all'inizio dell'anno politico, è sempre messo al termine delle vacanze. Vorrei che questo restasse chiaro, siccome so quanta gente ascolta la Zanzara, io stessa quando sono in giro ascolto la Zanzara, vorrei che veramente... Comunque guardi, il Senato riapre il 5 settembre e la Camera il 12, quindi già c'è una differenza. Sì, ma questo però non deve essere letto assolutamente in funzione del pellegrinaggio, perché altrimenti niente impediva al pellegrinaggio di essere svolto la settimana prima, non c'è nessun motivo. Ma non so come dirle, lei fa perfettamente. Non lo so, lo fate voi il pellegrinaggio, non lo so perché lo fate in quei giorni. No, non lo metto in questi termini, scusi, guardi, perché veramente mi sembra scorretto, cioè onestamente lo dico. Cioè non mi sembra giusto in un momento in cui c'è un'antipolitica così, così feroce, e in cui veramente molte critiche giuste vengono fatte ai parlamentari, ma anche molte critiche hanno il sapere un po', se vuole, un po' populistico, mi sembra che adesso aggiungerci anche questo, francamente, mi sembra totalmente scorretto. Però a settembre, mi scusi, ma è comunque un periodo di riapertura della politica, questo si sa, quindi fissarlo il 4 settembre è comunque andare in un momento nel quale, come diceva lei, sono le feste di partito, la politica riparte, però voi andate in pellegrinaggio. Dall'1 al 3 sono alla festa dell'Appi. E appena torno sono alla festa di Chianciano, cioè sono posta, il mio pellegrinaggio si pone avendo all'inizio una delle feste di uno dei componenti del Polo, e al termine la festa dell'UDC, che peraltro è il mio partito, che è un'altra delle cose del Polo. Quindi io colloco questa esperienza all'interno di un progetto concreto e preciso, che è quello che guarda la sensibilità di intercettare il consenso, se vuole, comunque di spiegarci, di entrare in un contatto più vivo con quelli che dovrebbero essere i sostenitori del Polo, del nuovo Polo. Senta, ci sono degli ascoltatori che chiedono chi paga il pellegrinaggio. Io, personalmente, ognuno di noi se lo paga tutto da solo. Perfetto. Senta, ma... Come molti dei viaggiatori si pagheranno le loro vacanze. Ma insomma, perché è una cosa dei parlamentari? Perché io personalmente, per esempio, l'ho anche fatto un pellegrinaggio in Terra Santa. No, io l'ho già fatto, quindi l'ho fatto una volta, mi è piaciuto molto, però mi incuriosisce il gruppo dei parlamentari. Come mai i parlamentari fanno un pellegrinaggio insieme? Per una regione? Una cosa normalissima, ci potrebbero essere gli impiegati delle come colleghi di lavoro. Gli impiegati delle poste che decidono di andare a fare un pellegrinaggio a Medjugorje. I professori universitari di Roma alla fine di agosto fanno un pellegrinaggio a Lourdes. Per dirle, ci sono infinite esperienze che si possono fare, che servono a dare anche coesione al gruppo, che servono a rilanciare dei valori. O a chiedere il miracolo per la situazione economica italiana, visto che potrebbe anche essere in fondo l'obiettivo, vista a volte l'inefficacia di tanti tentativi, esatto. Potrebbe anche essere che un miracolo fosse la risposta maggiore, però dico, in realtà siamo tutti qui a lavorare intensamente. E saremo qui a lavorare questa settimana. Ecco, ma a proposito appunto della situazione economica, lei come la vede? Cioè questa speculazione che riguarda l'Italia domani? Veramente drammatica. Da cosa dipende? Ma io credo che davvero ci sia una speculazione con quello che si può chiamare in qualche modo, come dire, un assalto ai titoli italiani. Questo penso che sia, altrimenti non si giustificherebbe, perché dopo una manovra abbastanza importante, abbastanza seria, approvata a maggioranza da parte di tutti, con diciamo l'incoraggiamento ma anche l'apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica, quindi una manovra che avrebbe dovuto dettare ai mercati un messaggio di, come dire, di speranza, un messaggio in qualche modo anche di coesione del Paese, invece questa manovra sembra quasi addirittura aver rilanciato una situazione di tale instabilità, no? Per cui è veramente difficile. D'altra parte è per questo che noi chiediamo di incontrare domani il Presidente del Consiglio, e dopodomani ci sarà un incontro con tutte le parti sociali, no? Proprio anche per cercare di capire che ormai ci sono delle battaglie, d'altra parte l'abbiamo visto anche adesso recentemente negli Stati Uniti, ci sono delle battaglie in cui è il Paese come una realtà unitaria a cui tutti noi teniamo che deve affrontare queste battaglie, quindi anche la maggioranza e l'opposizione devono trovare una domanda ancora gliela voglio fare prima di chiudere, perché poi abbiamo il giornale radio. Ma se, tornando al pellegrinaggio, ma se diciamo la situazione dell'Italia lo richiedesse e ci fosse da lavorare, ecco, lei lo rimanderebbe sto pellegrinaggio? Sì, ma certo, ma non c'è nessun problema, cioè tra i due insomma sceglie sicuramente di stare. Ma non solo io, guardi, in questo pellegrinaggio ci vengono veramente persone che hanno anche dal punto di vista istituzionale responsabilità anche maggiori delle mie, no? Ci sono veramente tante persone che sono della maggioranza, persone che sono dell'opposizione. Livia Turco, Livia, ma poi molti dei parlamentari vengono anche con la loro famiglia, questa è anche un'occasione per molti di loro, no? Quindi se ci fosse necessità non c'è nessun problema, ma penso che lo farebbe. Si rimanda o si sposta, insomma. Grazie. Che lo farebbe chiunque in qualunque caso. Grazie onorevole Binetti, buona serata. 18:58 minuti, 824 0024, giornale radio, torniamo subito dopo. 19:16, ben ritrovati gentili ascoltatori, 824 0024, seconda parte della Zanzara, per intervenire in diretta e dire, raccontarci le vostre opinioni e commentare le notizie della giornata. Allora sentiamo i titoli di Sky TG24. Crisi, Napolitano chiede misure per la crescita, domani il Premier riferisce alla Camera. Tremonti si muove, in corso il Comitato di Stabilità, domani vertice con Juncker. Ma le borse vanno ancora male, Milano maglia nera, nuovo record dello spread. Intesa sul debito pubblico, Obama incassa anche il via libera del Senato. Milanese si difende in aula, no alle intercettazioni, la Camera salva Verdini. Alla fede non si comanda, deputati in pellegrinaggio, la casta non si accorcia alle ferie. 31 anni fa la strage alla stazione, Bologna non dimentica e chiede ancora giustizia. La rivolta dei migranti a Bari e Crotone, lento ritorno alla normalità dopo gli scontri di ieri. Siria, il Ramadan non ferma le violenze, Frattini richiama l'ambasciatore. Bob De Cameron con Sky TG24 sul set romano dell'ultimo film di Woody Allen. Hai sentito anche tra i titoli scritti G24 i politici che vanno in pellegrinaggio e la notizia l'hanno data anche loro, e su Facebook della Zanzara di Radio 24 ci sono i vostri commenti che sono: ah, è una cosa pazzesca, ma pensavo che scherzasse, no, Labinetti va in pellegrinaggio davvero, insomma, eccetera eccetera. Quindi potete intervenire anche su Facebook. Titoli del TG3. Nuovo tonfo a Piazza Affari, attenzione altissima sui titoli pubblici. Domani Tremonti a Lussemburgo, la UE fiducia nelle misure prese dall'Italia. Il Congresso statunitense approva l'aumento del debito federale per scongiurare la bancarotta, in salita il futuro politico di Obama. Napolitano preoccupato per la crisi, seguo con attenzione il confronto, servono misure per la crescita, domani Berlusconi in aula. L'opposizione, il premier faccia come Zapatero ed esca di scena, da domani deputati in ferie, la Camera riapre il 12 settembre, il PD protesta. Sì della Camera all'uso di tabulati e cassetti di sicurezza per Milanese, negata l'autorizzazione per le intercettazioni di Verdini. 31 anni fa la strage alla stazione di Bologna, polemiche per l'assenza del governo, i familiari, comportamento inqualificabile. Presi a bastonate mentre urlavano per uscire, segni di violenza sui corpi dei 25 giovani morti sul barcone, rivolta di migranti a Crotone. Addormentati in un aeroporto, comincia il sogno di mare blu. Eh sì, perché che sia il pellegrinaggio in Terra Santa, una cosa seria sicuramente per l'amor del cielo, o che siano le sospirate vacanze, il tema è un po' questo. L'impegno, i prossimi impegni dei politici, dei parlamentari, del governo, domani dovrebbe chiudere la Camera e il Senato, ma non è detto, perché magari ci sarà da lavorare, visto gli straordinari che vengono chiesti a Tremonti e insomma vengono chiesti un po' a tutti, dalle borse soprattutto. Su Facebook ancora commenti all'intervento della Binetti, che appunto ha confermato che andrà in pellegrinaggio i primi di settembre, motivo per il quale, dice Cicchitto, la Camera riaprirà con una settimana di ritardo. In questo contesto uno dice addirittura: andate dall'esorcista anziché in pellegrinaggio. Insomma, un po' pesante. Ai, hermosa, da questo paradiso. Un motivetto gustoso questo di, credo, Little Tony e Bobby Solo insieme, insomma, è carino. E ancora qualche dichiarazione su questo tema dell'impegno dei politici durante l'estate, che ve lo ricordo è stato lanciato da Calderoli, che aveva proposto il campus delle riforme, il campus estivo, tema che fa ancora un po' discutere. Sentiamo Bocchino. Ecco, credo che sarebbe bello, e da parte mia lo propongo, sarebbe bello se il Parlamento, il Governo, le parti sociali annunciassero che anziché andare in ferie magari si tengono 15 giorni di stati generali, magari dentro l'aula di Montecitorio, invitando i soggetti nazionali ed internazionali per spiegare non solo qual è la reale situazione economica e sociale in Italia, ma anche e soprattutto quali sono i provvedimenti che vogliamo fare. Avete sentito bene, sarebbe bello, dice Bocchino, ma fatelo, se questo è il desiderio, fatelo, mettetevi a lavorare ad agosto per risolvere la situazione economica dell'Italia anziché andare in vacanza. Ma c'è chi, come Moffa, capogruppo, non ricordo se alla Camera o al Senato, dei responsabili, che dice: no, il Parlamento va avanti, non chiude mai. Il Parlamento non chiude mai i battenti, se ci sono necessità e urgenze i parlamentari possono essere convocati in qualunque momento. Io credo che bisogna anche finirla con questa immagine sempre negativa di un Parlamento che non lavora. Ho l'impressione invece che proprio negli ultimi tempi si stia lavorando molto e bene. Un bello sciopero a Ferragosto. Beato Moffa che ha queste certezze. Vabbè, stasera scherziamo sicuramente, però che la proposta di Calderoli del campus delle riforme abbia gettato un po' nello scompiglio tutti, perché è sembrata quantomeno tardiva, insomma, andavano messe a frutto quest'anno semmai le proposte del campus dell'anno scorso. Adesso ci vogliono interventi concreti, non ritrovi per farsi venire in mente delle belle idee. Sentite qua il sottosegretario Casellati, che sa bene come prenderla questa proposta di Calderoli. L'idea del campus, francamente, non l'ha capita neanche lei. Vabbè, ognuno può scegliere la forma che ha vuole. Ha detto che già sono arrivate 10 adesioni e non sono adesioni da parte, diciamo così, governativa, come se arrivassero da. Ognuno adesso si stabilirà quelli che possono essere, chi parla di stati generali. Insomma, poi voglio dire, quello che è importante è la sostanza, la forma attraverso la quale poi questo si dovrà realizzare e si vedrà. Credito e passaporto. Beh, non poteva mancare una dichiarazione di Scilipoti in questo contesto, che è a cavallo tra l'estate, i viaggi e gli impegni professionali dei parlamentari, e però quanto poi costano anche alle nostre tasche. Sentiamolo. Andrà in Giappone? Spero di sì, sono stato invitato, però non so se ci riuscirò. Prenderà l'aereo pagato dalla Camera oppure... Questa è una domanda molto superficiale e da un incompetente. Lei, che è uno giornalista preparato, dovrebbe capire che i biglietti d'aereo servono per spostarsi sul territorio e per fare il lavoro di parlamentare. Queste domande sono domande sciocche che possono fare solo coloro i quali non hanno competenza e non conoscono la realtà. Quindi pagherà lei il biglietto? I biglietti, quando vado fuori, li ho sempre pagati io. Domande sciocche, dice Scilipoti all'intervistatore, però poi precisa: il biglietto lo pagherò io, e siamo tutti più tranquilli. Senz'altro. Altro tema, perché ne abbiamo parlato anche ieri, 2 agosto, oggi anniversario, con polemiche della strage di Bologna a Bologna, polemiche legate alla mancanza di esponenti del governo sul palco della celebrazione voluta dai parenti, dai familiari delle vittime della strage di Bologna. Sentiamo il sindaco Virginio Merola. Colpisce il comportamento del governo. Si possono anche non avere risposte nuove in politica, ma non si può mancare di rispetto ai familiari e alla nostra città. E però, a dire il vero, alcuni esponenti del governo, tra i quali per esempio Filippo Berselli, parlamentare del PDL, presidente della Commissione Giustizia, vanno oltre una mancata presenza alle celebrazioni di Bologna. Vanno oltre dicendo è una strumentalizzazione politica, è una cosa che addirittura oltraggia le vittime. Dichiarazione abbastanza impegnativa e forte, secondo me, di Berselli, un po' oltre, forse anche, non lo so, illecito, forse anche lui si fa un po' strumentalizzare. Ma sentiamolo, Berselli. Ma quindi lei sarebbe per abolire proprio questa commemorazione, proprio perché la trova addirittura un oltraggio alle vittime? Sì, è un oltraggio alle vittime, così come viene impostata, è un oltraggio alle vittime. Sono certamente convinti questo. Le vittime della strage, che vengono strumentalizzate per fini politici. Cioè, e questo è il punto che forse non si vuole intendere. Si potrebbe sostituire con una santa messa nella chiesa di San Petronio. Cioè, sarebbero capaci di contestare anche il cardinale. Però, se andati in piazza. Chi dovrebbe farsi promotore di questa iniziativa? Ma non so, certamente i familiari delle vittime ne crede altro. Sa perché, onorevole Berselli, penso che si sia lasciato prendere un po' la mano dicendo che la commemorazione è oltraggiosa addirittura per i familiari delle vittime, perché loro sono liberi, in quanto essendo loro che portano avanti la memoria dei loro familiari, di decidere come celebrarla, come preferiscono celebrarla. Quindi è impossibile parlare di strumentalizzazioni se parliamo dell'associazione familiari vittime della strage, perché parliamo della loro pelle, della loro storia, dei loro parenti. Poi altre questioni politiche di strumentalizzazioni o di dibattiti che vanno oltre, su questo se ne può parlare. 1926 824 0024. Sentiamo qualche ascoltatore. Cominciamo da Leonardo, che chiama da Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera. Intanto le faccio i complimenti per come conduce sta conducendo la zanzara. Grazie, La vedrai molto da fare, molto da contraltare a Cruciani nella normale programmazione. Potrebbe essere divertente, per me sicuramente, insomma, grazie comunque. Sì, sarebbero dei bei scontri. No, niente, io volevo solo dire che sono abbastanza, cioè non so se ridere o se piangere di tutta questa faccenda, come credo d'altra parte pensino la maggior parte degli italiani. Purtroppo io sinceramente da parte mia sono schifato dalla politica, sono schifato da questa politica. Tutta incondizionatamente. Sì, abbastanza. Non c'è un politico che la trova più rassicurante, qualcuno che... Un pochino. Ma mi sembra, cioè, io sono anche abbastanza giovane, quindi mi piacevano i film d'orrore. Mi sembra che avere a che fare come con un virus, quando si trovano là, poi sono tutti contagiati in qualche modo. Esattamente. E io giro molto l'Italia, dal nord al sud, parlo con tantissime persone, operai, dipendenti, liberi professionisti, imprenditori, e tutti sono scontenti di questa politica. Io, per carità, oddio, c'è da dire anche che, insomma, adesso a onor del vero, se le cose non vanno nel nostro paese, per esempio anche per l'economia, non è che sia tutta colpa della classe politica, per carità, però bisogna dare il buon esempio. Io sono padre di due bambini, però ho visto insieme a mia moglie che non c'è niente di meglio di dare l'esempio. È inutile che io a parole dico una cosa e poi con i fatti ne faccio un'altra. E quindi lei si sta riferendo al fatto che ancora una volta classe politica, per esempio risparmiando e tagliando qualcosa su di sé, dovrebbe dare il buon esempio agli italiani, questo concetto, ma no? Dovrebbe tagliare tanto. Ma tagliare tanto, cosa, no? Per esempio? Perché insomma gli stipendi dei parlamentari adesso li stanno un po' contenendo, ha sentito oggi Camera e Senato votavano i bilanci e c'è un contenimento, se non proprio una riduzione della spesa, ma questo basterebbe secondo lei o ci vorrebbe altro? Le province, non so. Sì, le province prima di tutto. Cioè segnali netti in questa direzione. Continuano a dire le tagliano, però non succede mai. È vero, è verissimo. Sono i privilegi da difendere. C'è tantissimo lavoro da fare, però lo devono fare, è inutile fare. Poi sentire parlare prima Labinetti che si arrampica sugli specchi, cioè questa è la politica italiana, si arrampica sugli specchi per negare l'evidenza, per negare, Cicchito dice una cosa, Labinetti dice no, ma non è vero, cioè mi sembra di essere, non lo so, all'asilo a avere a che fare con dei bambini, però che ci costano un mucchio di soldi. Bambini costosetti, grazie. 19:29 sì. Borse e poi torniamo con i vostri interventi all'824-0024. Sicuramente in pellegrinaggio qualcuno andrà in elicottero, tanto ci vanno anche alle sagre, dice un ascoltatore al 349-238-6666. 19:34, ben ritrovati, 800-24-0024, ancora molto spazio per i vostri interventi questa sera. E allora risentiamo qualche ascoltatore, cominciamo da Elena che chiama dalla provincia di Monza, buonasera. Buonasera, mi scusi. Mi chiamo Elena, volevo fare un intervento relativamente al pellegrinaggio annunciato dei nostri parlamentari. Allora, premesso che io sono cattolica e quindi onestamente mi fa solo piacere che ci sia qualcuno, anche delle persone che abbiamo eletto, che si faccia forza della propria fede per aiutare questo paese. Sì, magari non nell'orario di lavoro. Esatto, riflettevo esattamente sul fatto che nonostante appunto ribadisca il piacere che mi possa fare, che attingere dalla fede non è una cosa che implica necessariamente il dover sospendere o comunque posticipare i lavori parlamentari in questo momento. L'Italia è piena di chiese. È piena di chiese molto spesso vuote. Sì, no, ma tra l'altro se si veramente potrebbero immaginare anche, non lo so, chi vuol fare il pellegrinaggio in Terra Santa, magari qualcun altro vuole andare alle sorgenti di un'altra spiritualità o all'università, allora, fare un approfondimento di management o di filosofia, esatto. Insomma. Ecco, questo è un discorso probabilmente un pochino, come dire, personale. Io parlo per quello che è la mia esperienza e quindi, attingendo spesso dalla fede, ritengo che possa essere utile anche ad altre persone. Ciò non toglie il fatto che la situazione in cui versa attualmente l'Italia non credo che sia una situazione che possa giustificare un posticipo di alcuni lavori che onestamente, insomma, mi sembrano molto urgenti, mi sembra che avrebbero dovuto lavorare molto e meglio prima. Ricordo che Labinetti si è argomentato così, ha detto, beh, comunque in quei giorni ci sarebbero le feste dei partiti, quindi le varie feste di settembre, no? Che ci sono le varie sagre dei partiti, per cui comunque i lavori parlamentari non sarebbero ripartiti, così ha detto lei, che poi è una cosa diversa dal pellegrinaggio, fra l'altro. Però... Esatto, sicuramente le feste dei partiti comunque potrebbero essere fatte anche senza la presenza dei parlamentari, soprattutto se, come ci vendono, sono le feste, tra virgolette, del basso. Allora, se fosse veramente così, le feste dei partiti non avrebbero bisogno della presenza comunque del personaggio di punta per attirare gente. Allora, la gente penso che sarebbe molto più contenta di vedere il proprio parlamentare al lavoro per il bene comunque di un'Italia che, onestamente non lo so, io probabilmente parlo, ripeto, per la mia esperienza, io sono uno di quei tanti che fa fatica a tirare la fine del mese. E ringrazio il cielo di avere comunque una famiglia che mi sostiene per tirare sulle due figlie con uno stipendio solo, un mutuo, eccetera, eccetera. Grazie Elena, grazie, grazie. Mi sembra chiaro quello che lei ci sta dicendo. Insomma, si è creata tutta una su Facebook, al 349-238-6666, un sacco di messaggi. Qualcuno dice il pellegrinaggio è pagato dalla Camera e dal Senato, è una vergogna. No, attenzione, perché la Binetti su questo è stata chiarissima. Ha detto il pellegrinaggio me lo pago da sola. Quindi non confondiamo, perché sennò diventa davvero qualunquismo. Sergio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Sì, prego. Buonasera. Ma senta, io volevo fare un intervento un po' tristemente leggero rispetto a quelli che sono stati fatti prima, no? Cioè, volevo dire questo, che il rossore della vergogna evidentemente non appartiene ai politici, praticamente tutti, e la Binetti mi pare che, giustificandosi con lei, l'abbia confermato questo piuttosto ampiamente, no? Allora qui, ecco, io ho pensato una cosa, una proposta favorita anche dalla stagione, no? La proposta sarebbe quella. Qua vedo che si va su qualche cosa di pesante. Ma no, non è assolutamente, anzi direi che tutto sommato è qualcosa quantomeno di morbido, no? Attenzione, di cosa sta parlando? Allora, guardi, io andrei ad accogliere questi signori che non diventano mai rossi con delle belle ceste di pomodori maturi, ma maturi, e poi ne farei un bel lancio. Questa è la mia proposta. Cioè, lei ha trovato un modo, se vogliamo, elegante, quantomeno di dirlo, anche se poi la proposta non è elegantissima, di dire vergognatevi, arrossite ogni tanto anche delle vostre stesse esternazioni. Sì, perché veda, mi sì, un po' di pudore non farebbe male. Non farebbe male, perché per esempio, due cose velocemente, no? Io oggi sono un agente di commercio. Allora, se io non raggiungo i target, naturalmente qual è la spada che ho? La spada è il fatto che vengo così disdettato con una semplice lettera e arrivederci a tutti. Questi signori che di target mi pare che ne hanno ciccati parecchi, no? Cosa succede? Che loro si sono dati un contratto di lavoro, lo voglio chiamare così, praticamente a tempo indeterminato, no? Perché basta vederli, sono lì da anni, anni, anni, anche questo fa parte del rossore. Un'ultima cosa, sì, no, che vorrei... sì, velocemente. Sì, velocemente questa. Io oggi ero da un cliente, no, che ha dei magazzini all'ingrosso, e mi ha detto che le ferie sono state posticipate da sabato questo prossimo 6 agosto alla settimana prossima, mercoledì della settimana prossima. Tutto questo per resistere alla crisi. Tutto questo significa lavorare, lavorare, lavorare. Ecco, è solo questo che volevo dire. Ecco, va bene, grazie. Che poi c'era stata anche la questione della festa del 17 marzo, si ricorda, dell'Unità d'Italia. Lì si doveva lavorare, adesso invece si va in vacanza. Vabbè, ma questo è un altro scherzo. Dunque, sempre ascoltatori, Guido da Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, io volevo solo sottolineare e anche una velata critica nei suoi confronti, no? Ieri ho sentito la telefonata di Mazzocchi, che a un certo momento si è espresso, lui evidentemente intendeva dire le masse, il popolo, ha detto il morto di fame, facendo riferimento alla media degli italiani, è ovvio che sia invidioso. E lei che è sempre così attento, diciamo, se l'ha lasciata passare sopra, questo, cioè qui uno scollamento di questo tipo. Io non entro nel merito, quali sono i valori, 1.000 euro in più, 1.000 euro in meno, l'Europa, la cosa, tutte le menate che lui ha fatto, però diciamo questo atteggiamento di classificare il popolo come morto di fame, che ci siamo, non sono poi paragonabili a diciamo una telefonata dignitosissima della Binetti che ha detto sì, io vado, magari Cicchitto che è ex socialista, forse non cattolico, come posso dire, ha motivato un ritardo del Parlamento verso quelli che non condividono i suoi ideali. Quindi cioè, ecco, viviamo in un momento che Andreotti non l'avrebbe mai detto, sì. Il popolo, il morto di fame, riferito al popolo. Questo passaggio lo recupereremo e magari lo rifaremo anche sentire, perché in effetti è vero, a me era sfuggito probabilmente ieri sera, però ricordo questo modo che ha usato il questore della Camera Mazzocchi, che evidentemente non voleva offendere nessuno, però lei dice giustamente, è un modo indiretto però che tradisce un po' anche un'intenzione o quantomeno un punto di vista, un po' una forma anche di disprezzo, lei dice, verso il popolo. Grazie Guido, andiamo ancora con ascoltatori all'824-0024 in attesa del prossimo ospite che dovrebbe arrivare tra pochissimo. Emanuele da Como, buonasera. Buonasera, prego. Complimenti per la trasmissione. Senti, noi devo intervenire per quanto riguarda il discorso della carta, i politici e i costi, che sappiamo tutti ormai ne abbiamo un po' pieno le scatole, però dobbiamo parlare anche un pochino dei mandati di questi parlamentari, dei politici in generale, perché settimana scorsa sentivo la trasmissione con il dottor Cruciani, c'era ospite Buttiglione, e io andavo a scuola, comunque io ho 44 anni, era già in politica, faceva delle affermazioni che secondo me, cioè una persona che navigata come lui, cioè dovrebbe mettersi da parte e lasciare spazio ai giovani, perché secondo me siamo proprio un paese vecchio, nel senso proprio della parola, cioè non cresciamo, siamo fermi e a questi, diciamo, dinosauri che stanno lì, parlo di tutti, perché comunque anche nella regione abbiamo Formigoni che secondo me non è lì, mi sembra che ha un mandato, dovrebbe andare lì, invece lì ancora, se noi cominciamo a ragionare con una classe, diciamo, giovane, per amor di Dio, ci sono anche giovani che fanno errori, ma che veda anche un po' il futuro. Seguo la vostra radio, vedo che siete frizzanti, avete delle belle trasmissioni, informazioni e tutto. Io accendo la televisione e mi ricordo la mia infanzia, cioè vedo le stesse persone, andavo a scuola, sentivo Buttiglione, sentivo i vari... Qualcuno vari ieri in redazione mi ha detto Ciriego De Mita è un po' come Pippo Baudo, che senza televisione non sa stare, e De Mita senza Parlamento non sa stare. Il paragone l'ha fatto anche lei. Grazie. Chi abbiamo? Mario D'Asti, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo un attimino ricollegarmi all'infinito dilemma del costo della politica, e volevo anche ricollegarmi all'intervista che avete fatto questa mattina a Bono del Movimento 5 Stelle. Non ricordo bene il nome della trasmissione, comunque so che questa mattina dopo il TG delle 9 mi sembra avete fatto un'intervista a Bono. Ecco, praticamente ci si lamenta tutti che comunque la politica non cambia, che insomma che sono tutti uguali, però io anche quelle poche volte che ho avuto modo di parlare con persone, sembra quasi che esista la destra e la sinistra intesa come PDL e PD, mentre ad esempio il Movimento 5 Stelle non viene mai menzionato. Questa mattina Bono raccontava che ha creato un caso per il fatto che hanno chiesto di rinunciare al finanziamento che gli spettava di diritto per il loro partito, insomma, per ecco, voglio dire, in 60 anni nella storia della Repubblica penso che siano i primi che hanno avuto il coraggio non soltanto di dire ma di fare qualche cosa. Sì, mi scusi, non ho capito bene, mi scusi un attimo, non ho capito bene la proposta, sì. Mi sono distratto, guardavo gli SMS. La proposta che lei dice è stata fatta dal Movimento 5 Stelle, innovativa, dice in 60 anni di Repubblica. No, sì. Scusi, non è una proposta, loro hanno praticamente chiesto di rinunciare al finanziamento che gli spetta, sì. Dato che non è mai stata chiesta da nessuno questa cosa, io penso alle segreterie o chi gestisce questa procedura si è trovata un po' spiazzata proprio per questa novità, no? Per cui è quasi la mosca bianca, e secondo me questo tipo di atteggiamento, che non soltanto si riduce a parlare ma fa, cioè perché rinunciare fisicamente a dei soldi, sono tanti soldi a cui hanno rinunciato, secondo me va premiata, ma non va soltanto, sì, premiata dicendo oh ma quanto sono belli, ma dando spazio a quello che loro dicono. Poi se uno ci crede anche dando il voto, grazie. E io penso No, certamente, sì. Scusi, ma mi sembra però che non viene dato tutto questo spazio, a volte viene dato quasi un contentino, ma secondo me è gente che va veramente premiata, perché sono gli unici che fino adesso hanno fatto qualcosa, sì. E gli altri, voglio dire, si sono limitati soltanto a parlare. Va bene, grazie. No, io penso che se non dà il buon esempio il Movimento 5 Stelle, che su questo ha costruito il suo percorso politico, beh, certo, saremmo messi male, quindi ben venga. Grazie Mario. Adesso andiamo a Pisa. Giovanni, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Comincio subito con farle i complimenti, non per la simpatia, perché essere più simpatici di Cruciani, insomma, penso sia una qualità di qualsiasi essere umano, ma perché finalmente... Cioè, proprio lo mette così giù sulla simpatia Cruciani, beh, no, via. No, è brevissimo, però sì. Insomma, non è certo, insomma, il miglior gestore di rapporti interpersonali che abbia mai sentito alla radio. Però è così, abbiamo fatto la premessa, va bene. Il complimento è perché finalmente sento tanti interventi dagli ascoltatori, che secondo me sono la cosa più bella di Radio 24, che c'è un pubblico totalmente trasversale, a me fa piacere ascoltarlo proprio per questo senz'altro, per questo senz'altro. Ma andiamo al nodo, proviamoci. Allora, sì, una cosa semplicissima e molto, molto veloce, sia per quello che è la retribuzione dei parlamentari, ma l'attribuzione in genere delle persone che hanno grandi incarichi di responsabilità. Sentivo l'ascoltatore di Parma, non c'è niente di male a guadagnare tanto. D'accordissimo, però sarebbe comunque giusto, e secondo me sarebbe un volano straordinario per l'economia, agganciare le retribuzioni dei top manager, come quella anche dei parlamentari, che poi per certi versi sono i manager della cosa pubblica di ogni Stato, alla retribuzione media di quelli che sono i propri dipendenti o i cittadini di quello Stato. Cioè, è chiaro che mi può anche dire il commissario del PDL, delle Camere, che forse loro non hanno le attribuzioni così alte che noi pensiamo, ma prima di tutto bisognerebbe riparametrarli a quella che è la retribuzione media del nostro paese. Cioè, noi a livello OCSE, quindi nel mondo occidentale, non parlo di Europa, siamo agli ultimi posti come retribuzioni. Quindi anche se un parlamentare italiano guadagna come quello inglese, ma non è certo uguale il mio stipendio a quello dell'impiegato medio inglese. È lì che c'è la distorsione, senza poi parlare di tutti i benefit incredibili che loro hanno. Cioè, per me è assurdo che io pago l'aereo alla gente che sta in Parlamento, addirittura quando non ha più neanche un incarico parlamentare. Io pago i viaggi in aereo anche degli ex parlamentari, non ha senso. E quindi se loro si vogliono aumentare lo stipendio, abbassarlo, lo facciano in relazione a quello che è il mio stipendio. Quindi se il paese va bene, è chiaro, è giusto che loro guadagnino di più, ma se il paese va male per tutti. Grazie, grazie Giovanni. Il suo intervento contiene due proposte. Una, quella di valutare gli stipendi dei parlamentari sulla base del tenore di vita del paese, e su questo sono d'accordo con lei, l'avevo detto anch'io a Mazzocchi, che per fare una valutazione seria bisogna guardare anche il tenore di vita, altrimenti dire guadagniamo come i tedeschi, per esempio, vuol dir poco. In Germania gli stipendi sono mediamente più alti, quindi se il parlamentare italiano guadagna lo stesso, evidentemente sta guadagnando di più di quello che guadagna, diciamo, il manager medio o l'operaio medio in Italia. L'altra proposta sua è quella di parametrare, così come l'ha detto anche qualche altro ascoltatore, sarebbe interessante, con degli incentivi, gli stipendi della classe politica, misurandoli sui risultati. È un po' difficile perché i risultati è sempre difficile misurarli, il PIL, se va bene, se non va bene, l'economia, se cresce, se non cresce, e tutta una serie di altre cose. Però è vero che questa strada è stata intrapresa anche in altri campi, per esempio nella scuola gli insegnanti, se producono, se non producono buoni allievi, vengono pagati di più o di meno, e così in altri settori, chissà, Potrebbe anche questa essere un domani una riforma futuribile, insomma, perché di là dal vetro qualcuno sorride, perché qualunque riforma sembra ormai così un sogno o una cosa così solo da parlarne, ma niente di concreto. 19:51, sempre in attesa del nostro prossimo ospite che è impegnato in consiglio regionale, non diciamo di quale regione, così lasciamo la suspense, un altro ascoltatore, Alberto da Brescia, buonasera. Buonasera, mi dispiace perché mi sono scollegato alla radio, quindi ho perso, tralascio i convenevoli, sono molto, molto semplice, molto diretto. Ho sentito stamattina a Radio 24 un parlamentare tedesco che molto semplicemente, secondo me, ha fatto un'osservazione giustissima, dicendo che, non so, tipo per il suo guadagno era di 7.700 al confronto dei 12.000. Io credo che sia un problema irrisorio questo, si tratta di pochi banali soldi che non credo che abbiano un conto importante nell'economia del paese. 600 persone, 600 deputati, due camere, una, due, credo che sia irrisorio. Credo che invece aveva fatto un discorso importante dicendo che i deputati tedeschi, perlomeno, sono delle persone che hanno una grande professionalità e che quindi non possono guadagnare una cifra del genere come degli imprenditori italiani o di altri paesi che guadagnano ben altre cifre al mese, perché svolgono e trattano dei problemi molto importanti, quindi hanno delle gratificazioni economiche molto, molto più soddisfacenti, ma questo in un'economia come la nostra credo che non faccia scalpore quando un calciatore guadagna X, quando Bonolis guadagna X, però queste persone rendono, danno un contributo, sono positive, e questa secondo me è la differenza, perché io pagherei volentieri i parlamentari anche 500-600 mila euro all'anno o di più come Bonolis o come un calciatore, purché ogni settore della loro così, specialità fosse produttivo. Grazie Alberto, la interrompo perché c'è una notizia che riguarda il, come dire, l'intervento atteso di domani di Berlusconi alla Camera e al Senato sulla crisi. Si era parlato di una assenza della Lega e c'è Roberto Maroni che dice: una cosa che non sta né in cielo né in terra. Così il ministro dell'Interno ha commentato con i cronisti l'ipotesi che domani la Lega possa disertare il discorso del premier Silvio Berlusconi. Ancora il virgolettato di Maroni: ho parlato anche con Berlusconi, ha aggiunto Maroni, per dirgli che è una stronzata. Si è lasciato andare questa espressione Maroni, che Lanza riporta. Stasera andrò da lui perché vuole incontrarci e illustrarci l'intervento che farà domani. Questo Maroni a proposito dell'intervento di domani di Berlusconi. Dunque la Lega ci sarà. Francesco dalla provincia di Lodi, buonasera, benvenuto. Caduta la linea. E allora proviamo con Marco da Milano. Buonasera. Prego. Io chiamavo anche io, purtroppo come l'ascoltatore precedente ho scollegato la radio, ma volevo commentare l'intervento dell'onorevole Binetti, che ancora una volta ha dimostrato la poca professionalità dei nostri politici e il poco attaccamento al paese. Siamo in un momento in cui, come giustamente diceva lei prima, siamo sotto attacco da parte di tutti gli speculatori e di tutti gli investitori a livello mondiale, e la preoccupazione dell'onorevole Binetti con altri onorevoli è quella di andare in Terra Santa, e dicendo anche che se il paese ha bisogno loro tornerebbero e annullerebbero il viaggio. Il paese adesso in questo momento ha bisogno di una guida, come in un'azienda qualsiasi ha bisogno di un management forte. Beh, certo, il paese ha già bisogno, certo, sì, infatti, questo sì. Cioè, non c'è, no, il, c'è un'ipotesi successiva, è già una realtà. Non mi sembra che l'onorevole Binetti viva in una realtà diversa dalla nostra, perché i mercati, l'andamento dei mercati e non solo, se oggi il presidente Napolitano ha incontrato anche il Draghi, il presidente della Banca d'Italia e in pectore il presidente della BCE, cioè vuol dire che la situazione del paese, ma non solo del paese, è davvero grave. Quindi tutto lì, mi sembra ancora una volta che non siano calati nella realtà del paese, e questa è la dimostrazione. Grazie Marco. Adesso introduco un altro argomento che però è collegato a quello con cui stiamo parlando. Parliamo di situazione economica, della manovra per esempio economica che ha messo sul piede di guerra per esempio le regioni italiane per la questione dei ticket sanitari e per le coperture dei tagli che vengono chiesti anche alle regioni, e questo è un tema. Credo che ci fosse tra l'altro oggi anche un incontro con il ministro Fitto e le regioni. Però c'è anche un caso Sardegna particolare. Ugo Cappellacci, presidente della regione Sardegna, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, c'è un caso Sardegna, adesso lei ce lo confermerà, avete un disagio particolare che lei oggi ha espresso, manifestato, andando a riconsegnare la tessera del PDL, da cui lei apparteneva fino ad oggi, al segretario Angelino Alfano a Roma. Che è successo? Sì, esatto, ci sono più questioni sul tavolo che insieme formano quella che in questi giorni è stata chiamata avvertenza Sardegna. Sono nell'ordine prima di tutto la questione Tirrenia, sulla quale la Sardegna, pur avendo una titolarità, il diritto di gestire in proprio la funzione della continuità territoriale, è stata esclusa da quel tavolo, non ha avuto la possibilità neanche di dare un contributo e si è vista passare sopra la testa un'operazione di privatizzazione che in realtà è una privatizzazione senza liberalizzazione, perché si consegna un monopolio privato quello che prima era il monopolio pubblico. La seconda questione riguarda l'annosa di chi è, scusi Cappellacci, prego, la fermo un attimo, prego, per puntualizzare una cosa, di prego, chi è la responsabilità di questa che lei chiama una privatizzazione senza liberalizzazione? Ma di un processo che è stato portato avanti dal governo che basa tutta l'operazione su un presupposto, ovvero sia 70 milioni, 72 milioni annui di contributi per la comunità territoriale che vengono dati in dote per 8 anni a chi acquista Tirrenia. Quelle sono risorse che vanno a coprire quella funzione della continuità territoriale che è propria della regione Sardegna. È un po' complicata, però resti con linea con noi, facciamo una brevissima pausa e torniamo tra un attimo. Giustamente, quando un cittadino che si muore di fame vede casomai l'onorevole Mazzocchi che prende un'indennità che è dignitosa per lui, ma per il morto di fame non è dignitosa, si arrabbia, hai ragione pure ad arrabbiarsi. E questo era il questore Mazzocchi, il PDL, che avevamo sentito ieri sera tirato in ballo stasera da un ascoltatore che diceva l'espressione il morto di fame, riferito all'uomo della strada, insomma dispregiativa, era un po' oltraggiosa, e in effetti Mazzocchi poteva usare un'altra espressione. Abbiamo in linea Ugo Cappellacci, presidente della regione Sardegna, col quale stavamo parlando del motivo per il quale oggi ha riconsegnato la tessera del PDL al segretario Alfano. Proseguiamo l'intervista tra un attimo. Prima, visto che sono le 20 in punto, sentiamo i titoli del TG1. Crisi, domani il premier in Parlamento napoletano vede Draghi preoccupato per i mercati, ora misure in favore della crescita. Borse ancora giù, Bruxelles ha fiducia nelle misure decise dall'Italia, negli Stati Uniti sì del Senato al piano sul debito. Tangenti a Sesto San Giovanni, il super test, i soldi finivano ai DS, via libera della Camera per Milanese del PDL, le indagini mi daranno ragione. Calcio scommesse, l'ex bomber Beppe Signore al TG1, nelle telefonate degli organizzatori c'è la prova che io non c'entro. Ancora massacri in Siria tra repressione dell'esercito e propaganda di regime, Frattini richiama l'ambasciatore e invita l'Europa a fare lo stesso. Poco prima di morire, Amy Winehouse aveva accettato di sposare il suo compagno, pronta a cambiare vita, nuove indiscrezioni mentre il padre progetta un centro intitolato all'artista per salvare i giovani da droga e alcol. Questi titoli del TG1 per i vostri interventi all'824 0024. Ugo Cappellacci, riprendiamo l'intervista. Lei diceva uno dei motivi che l'hanno indotta a entrare così in rotta di collisione col suo partito, il PDL, è il caso Tirrenia. Lei diceva una privatizzazione senza liberalizzazione, un processo portato avanti dal governo, dal ministro Tremonti in particolare. Anche lei magari si aggiunge alla lista di quelli che ce l'hanno con Tremonti? Non solo dal ministro Tremonti, certo questo ed altri motivi per averla col ministro Tremonti, perché poi l'avvertenza Sardegna, oltre che la questione Tirrenia, comprende la cosiddetta avvertenza entrate, che non è altro che l'attuazione del nostro articolo 8 di autonomia speciale, che è rimasto inapplicato in mancanza di norme di attuazione che sono all'attenzione del Consiglio dei Ministri e sulle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta sollevando una questione dietro l'altra. Questa è la seconda vera ragione, forse la ragione madre della mia, della ha nostra un valore protesta. Questa questione, questa seconda questione vale una cifra? Vale il differenziale, un importo che va dagli 800 al miliardo di euro. sono risorse della Sardegna, tutte le altre regioni, tutte hanno avuto l'adeguamento dei propri statuti e sono ormai a regime con le norme che prevedono la compartecipazione. La regione Sardegna è l'ultima rimasta che non ha avuto attuazione e questo è assolutamente inaccettabile. Peraltro il governo in più occasioni in sede di risposta a interpellanze parlamentari aveva assicurato per voce del sottosegretario Vegas all'epoca che non ci sarebbe stato alcun problema e che la copertura ci sarebbe stata. Oggi si pongono problemi di copertura, questo non è accettabile e significherebbe mandare in default la regione, perché stiamo parlando di bilanci 2010 e 2011, il cui in particolare 2010 è stato già chiuso, cioè la parificazione da parte della Corte dei Conti, e significherebbe andare a smontare qualche cosa di già realizzato, il che non è accettabile dal punto di vista amministrativo, ma non lo è soprattutto dal punto di vista politico. Senta, però sembra quasi che sia un gioco una coperta corta che si tira da una parte e dall'altra, perché lei dice la regione Sardegna così rischia il default. L'Italia non è che sia messa meglio con il debito pubblico che ha, e Tremonti ha le sue belle gatte da pelare in questo periodo. Vista da Roma, vista con lo sguardo di un cittadino nazionale, sembra quasi che la vostra questione sia un po' in secondo piano, cioè viene da dire Tremonti da qualche parte deve tagliare, no? La regione è pronta a fare la sua parte anche con i tagli, però prima di parlare di tagli bisogna mettere tutti in pari condizioni, e quindi la base deve essere ovviamente riconosciuta a tutti, perché non si può partire da un presupposto che è quello di riconoscere la base non a tutti ma a tutti meno uno e poi parlare di tagli. No, quindi prima giustizia per tutti e poi parliamo tutti di tagli. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Oltretutto abbiamo un bilancio che negli ultimi due anni è stato oggetto di un forte risanamento e di una politica di rigore, per cui abbiamo abbattuto il disavanzo di oltre 1 miliardo di euro. Stiamo facendo veramente una politica di buona amministrazione. Ma c'è stato una discriminazione alla rovescia, un favoritismo alla rovescia nei vostri casi, una forma di discriminazione perché magari siete, non lo so, perché lei è del PDL, allora è stato lasciato per ultimo dai suoi compagni di partito in questo riallineamento dei fondi per le regioni. Perché la Sardegna è rimasta l'ultima regione a non aver avuto questo fondo, secondo lei? Perché? Ma le ragioni non sono in grado di rappresentarle o di individuarle, e vale lo stato di fatto. Era una partita che era rimasta aperta, c'erano ampie rassicurazioni da parte del governo che si sarebbe chiusa in termini positivi. Oggi, anche in questo momento di crisi, ci sentiamo dire che non è possibile e questo non è accettabile. Senta, invece l'altra questione, quella dei ticket sanitari, ci so che ci sono incontri anche in queste ore per trovare una soluzione alternativa. Si parla di una tassa sul tabacco, è possibile questa strada secondo lei? È possibile, è già stata praticata in passato e noi come regione non abbiamo niente in contrario, certamente preferiamo quello all'aumento del ticket. Quindi lei su questo è ottimista, si potrebbe raggiungere un accordo? Io penso di sì e sono senz'altro per quel tipo di posizione, sono invece fermamente contrario all'ipotesi ticket. Senta, ancora una cosa, lei oggi ha incontrato Alfano a Roma, è così? Sì, esatto. A cui è riconsegnata, appunto, come abbiamo detto, la tessera del PDL. C'erano anche altri leader nazionali del partito? C'era Berlusconi per caso? No, c'era il ministro Matteoli, c'era il sottosegretario all'economia e finanze Casero e poi l'onorevole Lupi, e oltre alla rappresentanza dei parlamentari sardi. L'onorevole Lupi, quello che andrà in pellegrinaggio anche lui a settembre. Non so se ha sentito questa questione che è stata sollevata oggi. No, forse non è al corrente. No, c'è una polemicuccia relativa al fatto che un gruppo di parlamentari, tra cui anche Lupi, Labinetti, forse Livia Turco, andranno in pellegrinaggio a settembre in Terra Santa, rimandando la riapertura del Parlamento di una settimana, cosa che a qualcuno fa storcere la bocca, visto che siamo in un momento un po'. La sento da lei adesso per la prima volta. No, ma la domanda mia era un'altra, a parte lei ha citato Lupi, mi è venuto in mente per questo. La domanda era un'altra: che clima ha trovato nel PDL, sapendo che domani Berlusconi ha un importante impegno alla Camera e al Senato e sono ore un po' di tensione? Ma il clima mi è sembrato positivo, almeno con riferimento alle questioni che dovevamo trattare. C'è stata la presa di coscienza da parte del segretario, il riconoscimento della bontà, della giustezza delle nostre tesi, e tanto che ha detto che le avrebbe fatte proprie e si sarebbe fatto promotore di un tavolo politico. Quindi mi auguro che a questo punto sia conseguente e che si possa arrivare rapidamente alla definizione dell'avvertenza Sardegna. In mancanza di una definizione è evidente che la mia decisione sarà irrevocabile. E cosa potrebbe comportare la decisione? La sua decisione? Ma certamente una qualche ripercussione a livello locale, perché la mia gesto ha fatto seguito il gesto di altre decine e decine di rappresentanti, consigli regionali, sindaci, semplici consiglieri comunali e provinciali, che si sono dichiarati pronti a consegnare le tessere. Cioè potrebbe nascere un altro movimento, un movimento Cappellacci? Ma no, guardi, in questo momento la cosa importante è quella di individuare quelle che sono le ragioni di una comunità, di comunità. Credo che questo poi sia il dovere dei partiti, anche del Popolo della Libertà, essere vicini ai cittadini e coglierne le aspettative e i bisogni. Non è che ha provato a chiamare magari anche Berlusconi direttamente? Tra voi c'è anche una... Berlusconi io l'ho sentito mercoledì della scorsa settimana, c'è stato un pranzo tra me, il segretario Alfano, il presidente Berlusconi e gli altri presidenti PDL, nel corso del quale si è parlato anche di queste questioni. Quindi il presidente ha ben chiara la situazione, ho buoni motivi per ritenere che faccia parte della sua agenda politica, io mi aspetto anche un suo autorevole intervento. Secondo lei la lascio perché so che ha impegni in regione e in consiglio, che discorso farà domani Berlusconi? Lei è ottimista su questo discorso e sull'accordo con le parti sociali? Ma se sarà un discorso che sarà capace di avvicinarsi a quelli che sono i bisogni della gente e riportare la politica più sul livello politico e meno su quello sterile dei numeri, pur tenendo conto dei numeri, pur impostando politiche di rigore, pur chiedendo anche sacrifici al paese, però se sarà capace di questo io penso che l'esito potrà essere positivo. Grazie Cappellacci, pubblicità. Grazie a voi, grazie a voi. Notizia dell'ultima ora, il presidente americano Barack Obama ha firmato l'accordo sull'aumento del tetto del debito, che ora è legge. Capitolo chiuso dunque, 20 e 11 minuti, ascoltatori, riprendiamo con Marco che chiama da Piacenza, buonasera. Prego. È strano vedere, forse non è la prima volta, però con così tanta insistenza i mercati chiedere un cambio di indirizzo politico a un paese, perché secondo me è questo quello che sta succedendo in questo momento nei confronti dell'Italia. Io non sono abituato né a fare l'entusiasta né soprattutto ad autofustigarmi, come è buona abitudine dei nostri conterranei. Noi siamo comunque il settimo paese più industrializzato al mondo, abbiamo riserve, stiamo parlando di risparmi personali che non hanno niente a che spartire con paesi come Grecia, Portogallo, la stessa Spagna o Creta o Irlanda, quindi la nostra situazione è sicuramente diversa. È diverso purtroppo anche l'ambiente politico nel quale sta vivendo l'Italia. La governance è evidentemente una governance che non dà affidamento ai mercati. Non so, io non voglio schierarmi destra o sinistra, anche se ho un ben chiaro orientamento politico, ma mi sembra che i nostri politici in questo momento, più che tutelare la propria fetta di potere, non stiano facendo, stiano pensando poco al bene del paese. E se in Germania sono riusciti a fare una grossa coalizione SPD e CDU, che sono come cane e gatto, forse anche peggio di quanto possono essere centrodestra e centrosinistra in Italia, non vedo perché in Italia non sia possibile una cosa simile. Attuare quelle riforme strutturali pesanti e gravose per il paese, ma necessarie, che devono essere fatte, e finalmente dare un attimo di respiro a tutta la gente che in questo momento sta facendo fatica. Lei ce li vede Berlusconi e Bersani insieme? Grazie Marco da Piacenza. Io non moltissimo, però insomma è uno scenario. No, ma per l'amor del cielo. Sono assolutamente d'accordo con lei, però sarebbe ora. Ah no, ma sicuramente anch'io sono convinto che sarebbe. Da tutte e due le parti, Sì, tutte e due le parti, sto dicendo. Perché io capisco che non sia facile fare le riforme di cui ha bisogno questo paese, e siano delle riforme, parliamo della... È chiaro che è una coalizione comunque di un'ampia coalizione di partiti diversi, con proposte politiche diverse, ma che si sostengano senza farsi, come spesso accade ogni volta che uno cerca di tagliare alcuni privilegi, di salire poi sul carro dei protestatari del momento, no? Una volta sono i sindacati, altre volte sono le categorie produttive, insomma, ecco, questo sì, potrebbe essere anche per l'Italia auspicabile una grossa coalizione, però insomma non la vedo assolutamente all'orizzonte, ma vabbè, tant'è. Mauro da Roma, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Volevo provare ad allargare il discorso sulla carta e situazioni legate così a vere o presunte inefficienze del sistema, visto che si sembra che ci si stia un po' concentrando sulla politica, anzi diciamo che c'è una periodica ondata di antipolitica, che per carità ci sta tutta, ma diciamo da cittadino mi piace anche ricordare anche altre cose, cioè tanto per dire che ad esempio la chiusura degli uffici giudiziari per tutto il mese di agosto e parte di settembre, il fatto che non si riuniscono le commissioni tributarie nel mese di agosto, il fatto che ci siano insegnanti che alla riapertura dell'anno scolastico decidono di sposarsi in quel periodo oppure fanno pure in quel periodo. Cioè, sai, io mi rendo conto. Cosa fanno gli insegnanti? Mi scusi, non ho capito. È un'esperienza che ho avuto io con mia figlia. All'apertura dell'anno scolastico, legittimamente, una sua insegnante, per carità, ci mancherebbe, ha deciso di sposarsi il 15 di settembre, quindi si è sposata. Io mi sono sposato il 14. Ecco, e quindi no, per carità, io non ho detto legittimamente, ricordo i tempi di mia madre, poverina, che si sposò il 31 di luglio, e mia sorella nacque il 18 di agosto, insomma era programmato sostanzialmente tutto, erano altri durante tempi, le ferie, perché ecco, non si poteva interrompere, sì, non questo si poteva è vero. Quindi questo dico, vero. In realtà, ecco, mi piacerebbe ricordare, io sto vivendo adesso per l'attività che sto svolgendo, noi dovremmo fare un'operazione per la società in cui mi trovo a lavorare, una fusione deliberata e per la quale stiamo aspettando il nulla osta da due tribunali d'Italia, non dico guari così non facciamo sperequazioni. C'è il fermo giudiziario, invece di farla con decorrenza primo di agosto, la faremo primo di ottobre, quindi con tutta una serie di problemi legati ai lavoratori. Se no sembra che il problema in Italia è legittimamente, che ne so, l'ingrenaggio piuttosto il fatto che ci sono tante strutture in Italia, forse probabilmente è un problema magari culturale. Però mi scusi, la conclusione del suo ragionamento qual è? Che quindi ben venga anche il pellegrinaggio, la premessa, forse non mi sono spiegato bene, e colgo occasione che ci sono anche altri casi. Sì, domani potrei creare un gruppo su Facebook e le posso garantire che nel momento in cui andrò a parlare della chiusura degli uffici giudiziari oppure di magistrati che stanno in ferie e che magari non hanno interrogato qualche detenuto e che questo detenuto si ricorderà anni fa, magari è morto, si è suicidato, quello magari non se lo ricorda più nessuno, insomma, ecco. Cioè, mi piacerebbe ricordare un po' tutte queste cose a tutti quanti, agli amici di Facebook, agli operatori, ai politici. Va bene, l'ha fatto, benissimo, grazie. Vado un po' di fretta, non per altro, perché siamo in ritardo notizie del traffico e rientriamo tra un attimo. 824 0024, ancora uno spicchio di programma per sentire le vostre telefonate sulle notizie del giorno. Dove ci porta Beppe da Verona? Buonasera. Ciao. Ero in fiduciosa attesa, finalmente sono alla zanzara. Il solito discorso, sono contento di esserci, grazie per lo spazio che date a tutti, punto. Quello che volevo dire io è questo. Torno sul discorso del pellegrinaggio noi ci dobbiamo un attimino rassegnare all'idea che l'Italia è rimasto anche dopo Porta Pia in qualche maniera, per il potenziale elettorale che hanno i cattolici, un feudo della Chiesa. Va bene. La Chiesa con il suo elettorato fa il buono per il cattivo tempo. Come si affascina, si conquista, si corteggia questo elettorato? Facendo delle grandi gesta tipo il pellegrinaggio dei parlamentari alla faccia di uno Stato che è laico, deve essere laico, ma che di laico non ha niente. Allora, rassegniamoci all'idea che il pellegrinaggio dei parlamentari non è un pellegrinaggio, perché non ha niente a che vedere con i principi cristiani, con la tradizione medievale del pellegrinaggio. È una forma di propaganda politica, è fare il verso ai cattolici, che comunque guarderanno con magnanimità, bontà e ammirazione questi qui che, alla faccia dei problemi del paese, se ne vanno a Gerusalemme e vanno a fare il pellegrinaggio. Però, per favore, i cattolici la smettano di dire che sono cristiani, perché tutto questo non ha niente a che vedere con il cristianesimo. Il cristianesimo è quello di uno che si è fatto mettere sulla croce per le cose in cui credeva, e non solo, ma che ha detto, per esempio, non sappia la mano destra quella che fa la sinistra, che ha detto, per esempio, non fate come i farisei, che quando vanno nel tempio si fanno incensare davanti e di dietro e fanno vedere a tutti quanti quello che hanno fatto, perché questa è infamia. Cioè, quel signore lì, sì, no, li ha chiamati farisei, sepolchi imbiancati, perché la loro era solo una propaganda politica. Politica, io l'ho che fatta parlare, però dico che sinceramente non ci ho capito moltissimo. Comunque non importa. No, mi fermerei qua con l'ascoltatore perché mancano pochi minuti. Credo che se lo lasciassimo parlare andrebbe avanti tranquillamente anche fino alle 9, però forse non è il caso. Alcuni messaggi su Facebook. Io sono una fervente sostenitore, dice Roberto, del pellegrinaggio dei deputati. Mi sembra sinceramente l'iniziativa più concreta che abbiano preso da 3 anni a questa parte. Questa non è male. Poi chiedono ancora, c'è ancora la replica notturna? Credo si riferiscono alla Zanzara. C'è ancora la replica notturna? Mi fanno cenno di sì. C'è ancora la replica notturna. Altri commenti alla Binetti, commenti sul programma. Bravo, andate avanti così, eccetera. Va bene, grazie. 20 e 21, ancora un po' di ascoltatori, li sentiamo, sì. Chi abbiamo? Claudio da Firenze, buonasera. Claudio da Firenze, ecco. Buonasera, buonasera. Vorrei fare un breve intervento sempre sui costi della politica. Io ho una piccola azienda, vi farò un intervento semplice, da persona molto semplice, vorrei fosse apprezzato nella sua semplicità. Io ho una piccola azienda, siamo 8 membri di questa azienda. Cosa produce? Noi produciamo in porcellana, delle resistenze in porcellana, un lavoro semi-artigianale. Va bene. Comunque detto questo, andiamo avanti. Mi sono trovato pochi giorni fa a ritirare un'autovettura aziendale per un tagliando. Sto parlando veramente semplice, però questo fa un po' lo schema di tutto. Alla Audi di Firenze, e parlavamo con gli operai dell'Audi di Firenze e loro mi stavano spiegando che i nostri politici, l'Audi di Firenze è direttamente Autogerma, quindi è il fornitore ufficiale delle autovetture dei nostri ministeri. Va bene, però ecco, sì. Quindi diamo subito il senso alla cosa. Sì, esatto. I nostri politici, sì, il Ministero del Tesoro, sì, ha già ordinato, sì, 150 Audi A6 nuove, nuovo modello, perché le auto che i ministeri hanno in questo momento hanno un modello che a settembre andrà a invecchiare, semi blindate, quindi con una, sì, prima blindatura, però, con il costo di, sì, 200.000 euro ad autovettura. Cioè lei è sicuro di quello che, allora, sta dicendo? No, io sto dicendo una cosa certa. Sì, quindi, no, glielo chiedo perché è interessante. No, mi perdoni se ho un'enfasi, perché questo non è niente, come tutti gli interventi di quegli altri cittadini, sì, che hanno detto piccole cose, di piccoli interventi. Tutto questo non è niente, ma la realtà di fatto è che i nostri sì, politici non stanno facendo il loro lavoro, e quindi tutto quello che stanno prendendo dallo stipendio, dai benefit, dalle autovetture, dal biglietto dell'aereo, è tutto troppo. Quando noi, sì, piccoli imprenditori, chiamiamoci così, o piccoli artigiani, che comunque diamo un contributo a quello che è la nostra nazione, non ce la facciamo arrivare alla fine del mese. Queste persone non stanno facendo il loro lavoro, per cui noi dovremmo pagarle il necessario o qualcosa di più. Io vi sento giornalisti e in qualche modo cercate, sì, pur essendo una radio che comunque è abbastanza obiettiva, cerca, grazie, di mascherare con delle ottime parole, con degli aggettivi. Ma no, guardi, noi non mascheriamo nulla. Lei con questo accento è simpatico perché è fiorentino e toscano, però io sfumerei, perché credo che anche lei è uno di quelli che andrebbe avanti per mezz'ora, ma non mi sembra giusto nei confronti degli altri che ascoltano e magari vogliono intervenire. Comunque grazie Claudio. Andiamo da Stefania che ci chiama da Biella. Buonasera, dottore. Ho sentito Mucchetti, che non è un fanatico comunista, al TG3, alla domanda: lei cosa pensa che dovrebbe fare Berlusconi o dire domani? Lui ha detto una sola cosa: dimettersi. Io sono assolutamente Chi è che l'ha d'accordo. Detta questa cosa al TG3, mi scusi? Sì? Mucchetti, alla domanda. Il giornalista del Corriere? Prego? Il giornalista del Corriere, lei si riferisce sì, a Mucchetti? Sì, sì, proprio lui. Sì. Io sono perfettamente d'accordo che Berlusconi dovrebbe dimettersi, ma non solo, dovrebbero dimettersi tutti quei parlamentari che in questo momento si sono prorogate le vacanze al 12 di settembre. Io posso esprimere soltanto quello che sento, non ho parole, però quello che sento è: ma è veramente uno schifo. Poi, a proposito, e chiudo con quello che ha l'intervento della signora Binetti, lei ha detto che vanno alla fine della stagione politica per ringraziare. Per ringraziare di che cosa? Perlomeno ci vadano all'inizio della stagione politica per chiedere la grazia di essere meno schifosi. No, io dico ci vadano in vacanza, così non creiamo problemi a nessuno. Grazie Stefania. Andiamo a Sandro, che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buonasera, le auguro di continuare così per il nostro bene e per il bene di Radio 24, lei ha già capito di dove voglio arrivare. Senta, io sono un privato cittadino cosiddetto speculatore e le spiego subito che per cosa arrivare vuol al dire, punto. Sì. Sì, vuol dire questo, che la settimana scorsa, lei forse tecnicamente lo capisce a volo, ho venduto molti future sul nostro BTP. E sa quando li ho venduti? Quando ho visto che il nostro Parlamento si stava occupando del processo lungo. Lei ha capito a volo dove voglio arrivare, cioè volevo dire che quando in una situazione di emergenza del genere, è inutile che faccio l'elenco delle varie cose che non vanno bene, quando ci sarebbe bisogno di una mano ferma che guidi e che tracci un itinerario da seguire per uscire fuori da questo, credo che sia quasi un inferno attualmente, ci vediamo che il Parlamento è occupato per approvare il processo lungo, non si sa più se breve, lungo, compagnia bella. Lei capisce che la speculazione, che è razionale, che è efficiente, che va a colpire il malato e che deve solo guadagnare soldi, non ha altri obiettivi. Bella questa immagine che lei sta usando, lo ha già individuato, qual è il corpo malato che non viene curato. E allora colpisce impietosa perché deve fare soldi e basta, no? La speculazione non ha altri obiettivi, è razionale, non è ideologica, ha solamente uno scopo di fare soldi. Lei capisce che quando un Parlamento, lei sa meglio di me, si occupa di certe faccende di cui nessuno di noi ne sente la minima necessità, tranne quel signorino Bassetto che hanno chiamato gli italiani a fare il Presidente del Consiglio e tutti gli scherani che stanno attorno, ovviamente la speculazione capisce che lì c'è qualcosa che non va, che il malato non viene curato e quindi lo assassina. Grazie, ci fermiamo qua. Domani, il giorno della verità, Berlusconi interverrà alla Camera e al Senato sulla crisi e sentiremo se ci sono delle notizie, delle novità. Per ora è tutto, noi ci fermiamo qua, ci risentiamo naturalmente domani. Buona serata. Radio 24, la passione si sente.